Io non so se la tua faccia sa ripetere una tua crepa interna, o se i miei sensi meglio sanno di questa mia virile testa, che è vero se è falso colui che è bello, bello perché è simile, o bello perché è buono. Io cerco e cerco, tu corri e corri, e io corro, e tu ridi alle folle spaventate. Non so quale grandezza ci fu preparata, Iddio non perdona chi porta fior di labbro soltanto il suo difficile nome, il suo dono di sangue, la sua gialla foresta. Spianai un terreno per riceverlo, ma scappai prima che i tamburi suonassero, e così saprai chi sono: la stupida ape che ronza per un punto fermo, cercando lui quella giungla di alberi di ferro battuto.